Beam Busters! Steve called me up and said, wanna hang out tonight. We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home. Benvenuto. 3, 2, 1, sigla! Batman! Batman! Evviva! Salve a tutti, amici da casa, come sapete bene, ha beccato il City! Abbiamo beccato il City, no, scherzo, ha beccato il Real Madrid. No, dicevo, finalmente inizia la stagione cinematografica dopo un'estate in cui non abbiamo saputo di cosa parlare, giusto di quella merda dei Mercenari 2. E come ben saprete, oggi 30, ma ovviamente quando ascolterete questo podcast sicuramente sarà passato qualche giorno, perché io non ho voglia di editare. Ottobre uscirà, sì. Come saprete, il 29 è uscito Il Cavaliere Oscuro del Ritorno, sicuramente l'avrete visto. E niente, abbiamo deciso di dedicare questa puntata a Batman, perché Batman è morto, quindi è doveroso dedicargli una puntata. E con me ci sono il Monco. Che palle. Sembra un cane che abbaia. Era Barbie Xanax, la nostra eroina, va bene. Ah, Barbie Xanax, ciao Barbie. Ci abbiamo invitato, ma ci ha snobbato, diciamolo. Ma sì, infatti. La siamo bombata da dietro, però. Questa la taglio. Okay. E con noi, come avrete capito, c'è anche Intrinseco. No. Sì, sì, fidati. Sì, ciao. Allora, ci siamo fatti un sacco di nemici con le brutte parole che abbiamo speso per i Mercenari 2, no? Sì, un sacco di uova sulla mia finestra, lettere bomba. Sì, le cose, le buste di carta con la cacca dentro bruciate davanti alla porta. La madre la notte si alza e piange. Sì, no, infatti... Mio padre è zoppo. Aspetta, questo è... Qual è vero? Però aspetta, cioè, diciamo la verità, che ci ha spinto il Monco a parlare in quei termini del filmone di Stallone. Vero, vero. È tutta colpa tua, e la prossima volta, insomma, ti lascio Skype acceso e fai un monologo, perché io sono pavido e non voglio più assumermi le tue responsabilità. Bersani ha detto che sono un fascista. Sì. Va bene. E Batman. Bersani ha detto che Batman è un fascista. Fascista. Dopo che Batman gli ha dato dello zombie, però. Certo. Sì, è una cosa lunga che va avanti da... E poi è esploso. Ha detto zombie, però. Vabbè, occhio. La voglia è già scesa a minimi storici. Dicevamo, vabbè, poi inizialmente vogliamo parlare di una news che riguarda il film Il Cavaliere Oscuro del Ritorno, ma più in generale tutto il genere dei comic movie. Poi parleremo del film. Ci saranno comunque delle controindicazioni, nel senso che se non avete visto il film, noi ci mettiamo le mani avanti, insomma, per evitare spoiler è meglio che non ascoltate lo spezzone sul film, o no? Sì, Vogliamo parlare abbastanza liberamente, quindi... Parliamo senza spoiler, cioè parliamo con spoiler, quindi sappiatelo già... No, senza, con... Vabbè, comunque poi faremo anche una... Allora, ogni volta che diremo qualcosa di spoileroso, prima urleremo SPOILER! Sì, ok... Io non lo faccio, però vabbè. Rireplica questo urlo ogni volta. Va bene, anche neanche questo faccio. No. Vabbè. E niente, poi insomma c'è una succosa news che però rimandiamo in coda al podcast. Quindi bando alle ciancio alle bande, e Intrinseco ci introduce cosa ne pensa David Cronenberg dei comic movie. Ah sì? Sì. Sì, se ne è già parlato sul forum, è una news che ha subito attirato l'attenzione dei fan di Nolan e dei lettori di fumetti, e se non sbaglio un paio di settimane fa, comunque a metà mese, durante un'intervista credo per la distribuzione di Cosmopolis, che evidentemente in America non è ancora uscito ufficialmente, un giornalista tra le varie domande ha pensato bene di chiedere a Cronenberg se avrebbe mai realizzato un film basato su un fumetto, cosa in un certo senso ha già fatto. Non era un fumetto supereroistico, ma a History of Violence, comunque fonte è quella. E lui si è incazzato come una bestia, no? Cioè, a mio avviso non ha gradito la domanda, forse in quella sede particolare. Comunque si parla di cinema d'autore, tu te ne esci con questa cosa a uno che probabilmente non ha interesse nel genere. Però scusa se faccio la puntualizzazione, perché mi sa che la domanda è nata dal fatto che lui ha detto che se fosse un attore interpreterebbe Batman, cioè gli piacerebbe interpretare Batman se fosse un attore. Sì, scusa, no, è andato via un attimo, non ho sentito. Ah, ok, no, dicevo che la domanda è sorta quando Cronenberg ha detto che se fosse un attore gli piacerebbe interpretare il personaggio di Batman, e quindi hanno fatto la domanda relativa. Ah. Quindi, sì. Cioè, un po' cercata, insomma, non è che puoi dire cose e poi ti incazzi. Se ti io ho visto sempre l'estratto, e c'erano queste due domande isolate, chiaramente, sì. Non la riportano tutta per questioni di spazio. C'era sempre, lo faresti mai, lo dirigeresti mai, però sì, non sapevo di questo. Ok. Bene, una giusta, doverosa precisazione. E comunque, insomma, lui ha risposto in questo modo un po' acceso. Beh, non so, non ho visto filmati, immagino, il tono è quello. Sembra abbastanza spazientito, sembra anche poco preparato sull'argomento, ed è questo che ha infastidito molti dei lettori, comunque dei fruitori della notizia, perché ha parlato, se non sbaglio addirittura, ha parlato di Nolan come uno che sperimenta anche nel 3D, cosa che non è mai successa, e in generale ha parlato dei fumetti in termini poco lusinghieri, ma per questo è stato forse anche letto male come discorso, probabilmente c'era un classico modo di generalizzare, una cosa che si fa comunemente, cioè di dire è una storia da fumetti, cioè perché il fumetto comunemente è ritenuto un medium meno nobile, meno alto, e allora spesso si usa, anche in italiano, si usa di paragonare una storia da poco a un fumetto, e penso che lui abbia fatto questo tipo di discorso, non perché lui abbia qualcosa contro il fumetto in sé, ma perché il comic movie e i fumetti presi singolarmente sono, li considera qualcosa di meno, di culturalmente meno rilevante. E poi secondo me il nocciolo era un altro, cioè lui premeva semplicemente rispondere a un atteggiamento che c'è adesso nei confronti soprattutto dei film di Nolan, quindi secondo me anche qui ha sbagliato, cioè non è tanto il comic movie in generale, ma quello di Nolan che, soprattutto verso i suoi ammiratori, desta sempre un certo entusiasmo e si tende sempre a farsi prendere un po' da questo entusiasmo, a dire che questo tipo di cinema è vicino, insomma, sono capolavori, sono vicini al cinema d'autore, è una nobilitazione del fumetto, e quindi un avvicinarsi a un cinema più impegnato, e lui ha voluto prendere posizione in merito a questo, credo. Sì, ma più che altro sulla news che è stata riportata da Bad Taste, qualcuno fa notare che il fatto che lui ci abbia messo dentro più o meno il funzionamento del business di Hollywood, la sua fosse più che altro una critica al sistema di Hollywood. Infatti viene posta la domanda, ma quindi pensi che il soggetto precluda la possibilità che questi film diventino forma d'arte? E lui fa insomma il pippotto sul fatto che a Hollywood tu hai 20 dirigenti sopra la tua testa, si dice che Nolan abbia un certo grado di controllo sulle sue opere, però lui dice ma è un potere piuttosto fittizio, perché fondamentalmente ogni volta che deve fare qualcosa deve chiedere il permesso a questi dirigenti, e il fatto che comunque a loro non interessi fare arte quanto piuttosto ovviamente il nudo profitto, e insomma preclude la possibilità che si possa fare arte. Poi, come ho già detto sul forum, secondo me sì, quello che dice tutto sommato è condivisibile, però la mira è un po' sbagliata, perché insomma parlare di film adolescenziali non è poi così sbagliato, perché in fondo il comic movie, a parte rare eccezioni, non è che ci abbia dato grossi esempi di maturità, però insomma scagliarsi contro l'unico film che ha cercato di fare qualcosa di più, insomma mi sembra non lo so, quasi che avesse dell'astio nei confronti di Nolan, ma non capisco perché, sinceramente. Ma appunto non avrebbe senso, non, nel senso, anche perché come autore, appunto autore, non regista commerciale, ha affermato, cioè non avrebbe neanche bisogno di farsi un nome, di provare rancore, è uno che si è tenuto volontariamente fuori da Hollywood, cioè ha fatto qualcosa di hollywoodiano, soprattutto adattamenti di romanzi di King, cose di quel tipo, le ha dovuto fare anche per insomma poi pagarsi quello che ha fatto dopo, però c'è cioè, uno che sa come funziona, non ho capito, secondo me, ripeto, non ha gradito poi il tirar fuori questo argomento nel contesto, però se come dici tu poi è stato lui a andare sull'argomento, però non vuol dire nulla, cioè il fatto che sì, mi piacerebbe fare questo in quel tipo di film non significa che mi piacerebbe dirigerlo, cioè sono qui a proporti un film come Cosmopolis che piaccia o non piaccia è su un altro livello e tu mi dici vorresti dirigere un film di supereroi e boh, probabilmente una persona come lui che ha una certa educazione, fa un certo tipo di cinema, è lontano e quindi ammetto, probabilmente impreparato anche, arrivo anche a dire che magari non ha neanche mai visto un film di Nolan, proprio per questo. È possibile, spesso si parla per sentito dire, uno che non gliene frega nulla, si è trovato a dover rispondere, ha detto più di quanto doveva. Anche perché è un peccato, siccome dicevi tu, il nocciolo, la questione è rilevante, cioè era giusto sollevarla. Però così cosa rimane? Rimane la frase che turba e infastidisce il lettore di fumetti, cioè si ricorderà questo, no? Che lui ha detto questo, i lettori di fumetti che devono legittimarsi, non tutti, non voglio categorizzare per forza, però c'è sempre questo tipo di reazione, quando si parla di fumetto c'è sempre chi deve dire ma c'è la graphic novel, ma c'è l'opera che va oltre, sì, ci sono, però c'è sempre, sai, questo orgoglio del lettore sì, di fumetti stato... Che poi... È una cosa che sinceramente vedo anche per gli appassionati di videogiochi, nel senso che sentono sempre il bisogno di dover ribadire che il loro medium è comunque qualcosa di valido, insomma, quasi che definirlo arte lo nobilitasse, insomma, che poi fondamentalmente è anche così, però insomma doverlo ribadire ogni 3x2. Certo, sì, mi sembra anche caso stesso, cioè è giusto dire, poteva dirla meglio, per carità. Lo penso anch'io, che comunque sono d'accordo con lui, però sì, c'è sempre questo desiderio di legittimarsi, un po' la coda di paglia, no? Cioè io leggo i fumetti, magari nessuno ti dice che sei un ragazzino, che il fumetto è, però c'hai sempre questa coda di paglia, no? Questo vero dire, però ci sono questi fumetti, certo, ci sono anche romanzi di merda e romanzi come non so, quelli di Proust o di Dostoevsky, certo, c'è ogni cosa e il punto è quello, peccato che si sia perso un po' così, che lui l'abbia detto così male. No, ma soprattutto che neghi a priori che possa uscirne qualcosa di buono, perché poi se lo neghi a priori, sì. Allora casomai è anche giusto che qualche saccendino ti mostri la foto di Watchmen, del fumetto di Watchmen, perché cioè, te lo sei meditato, sono andato a cercare. Quindi. Però io comunque do ragione anche su questo, nel senso che anche Batman... che va un pochino oltre, ma ripeto un pochino, perché insomma lo rende più fruibile anche a chi magari non gradisce il fumetto, il film basato sul fumetto, però quello rimane, cioè non dico che non ne possa venire con nulla di buono, come invece sembra fare lui, però rimane qui, cioè sono d'accordo con la frase in cui lui dice è sempre un film basato sui fumetti, sì, cioè non bisogna dimenticare questo, io vedo adesso le recensioni su The Dark Knight Rises, che poi ne parleremo meglio rispetto alle nostre opinioni, però c'è questo proprio questa adorazione, gente che comunque magari ha visto qualcosa di più impegnato, lo vede, leggo le recensioni, leggo i commenti, vedo che parlano anche di cosine un po' più raffinate, senza comunque nulla togliere a... E poi però escono questi film, sono in estasi, poi Nolan è proprio un fenomeno, cioè qualsiasi cosa faccia, tanto Batman quanto Inception. Sì, ecco, il fenomeno più che altro è Nolan, infatti sì. Secondo me la mossa di fare intervista del genere di Cronenberg significa inimicarsi una fetta di pubblico abbastanza sì. Consistente e fondamentalista, talebana proprio. Sì, probabilmente se c'era speranza che conquistasse un pubblico diverso, adesso è definitivamente se l'è giocata, insomma. Sì, ma io non sento il monco però. Si era addormentato. No, no. Ho sentito un po' male entrambi, però sarà stato un problema mio. Sì, sono d'accordo con voi nel considerare il fumetto non proprio per bambini. Cioè, io non sono fan del fumetto, però sì, è come avete detto, c'è la merda per bambini o non, ma c'è anche la roba più per adulti, le graphic novel, eccetera. Però, andando a vedere Batman, mi sono guardato intorno e il pubblico medio era... dei ragazzotti di 30 anni con la maglietta di Avengers, le braghe corte tirate su fino all'ascella e l'occhiale con lo scotch in mezzo, quindi non avranno l'età... E l'uomo fumetto pure. Sì, sì, esatto. Cioè, non avranno l'età... Cioè, non saranno infantili in età reale, ma in età del cervello sì. Quindi quasi conferma quello che dice Cronenberg. È una roba per bambini, a guardare il pubblico medio. Soprattutto capo di vento, Davide. E... e poi, no, non capisco dove sia la notizia. È un regista d'autore... Che ha sempre fatto film particolari. Sì, vabbè, gli hanno fatto una domanda sui supereroi. Ovviamente lui ha detto che non gli piace il genere. Ma guarda caso, non ne ha mai fatto uno. Non si è mai interessato al genere. Non ha mai detto: ah, però interessanti i film sui supereroi. E allora qual è? Cioè, la notizia qual è? Ha detto che non gli piacciono delle cose che non ha mai fatto. Punto. È come se a Nolan, che non ha mai fatto gli horror, gli dicono: faresti un horror? E lui prende per il culo Cronenberg, cioè sarebbe il contrario, no? E allora dov'è la notizia anche in quel caso? I fan di Nolan si lamenterebbero, e invece in questo caso cioè sì, i fan di Cronenberg si lamenterebbero, invece in questo caso sono lamentati i fan di fan di Nolan. Boh. Comunque mi è piaciuta nell'intervista quando ha detto che vabbè, innanzitutto li ha visti i film di Nolan, contrario a quanto diceva Intrinseco, perché gli è piaciuto Memento, ha detto che è il suo preferito. Batman, comunque, ah sì. Vabbè, no, comunque ha detto che sono noiosi i Batman, quindi credo che li abbia visti, o comunque vabbè, ha fatto la frase generale, insomma ha generalizzato: i film dei supereroi sono noiosi. Però mi è piaciuto quando ha detto: vabbè, ma è un film con uno alla fin fine con un vestito di pipistrello va in giro per strada. E in effetti è vero, anche quello che ho pensato ieri quando si è visto per la prima volta Batman nel film, ho detto: ah già, cioè vabbè, ok. Sì, perché vederla alla luce del giorno fa un effetto diverso, è una cosa che ho notato anch'io. Se finché ero immerso nelle tenebre lo prendi più sul serio, ma alla luce del giorno è effettivamente è ancora più un pazzo col vestito da pipistrello. Che tra l'altro è anche il problema che molti hanno attribuito al primo Dark Knight, ovvero che sì, è un film bellissimo, però ci sta sto, cioè l'unico difetto è che ci stavano vestiti da pipistrello fondamentalmente, quindi sì, non è che è Batman. È condivisibile, insomma, è un parere, se uno dà fastidio, insomma, non è che c'è molto da discutere, alla fine è spesso dei pareri Cronenberg, insomma. A domanda almeno... rispondo, cioè non è che sì. Se ne è uscito dicendo: oh, aiuto, ascoltatemi, non guardate Batman. Ha risposto a delle domande. Poi lui, ripeto, conosco perché è uno dei miei registi preferiti, anche a livello culturale, come crescita, cioè viene fuori da un ambiente diverso. Ovviamente non li leggeva, o ne leggeva pochi, o un certo tipo, perché è proprio non dico uno snob, ma comunque uno che viene da un'educazione particolare, quindi è proprio lontano da... Poi è strano perché comunque come cinema le prime cose che ha fatto sono horror, tra virgolette, soprattutto sì. i primi, perché poi si è un po' evoluto. Quindi è uno che in un certo senso viene dal cinema commerciale, però è anche vero che l'horror d'autore ha regalato dei film che sono... Cioè, mi viene in mente Shining, no, perché qualcuno ha risposto all'affermazione dicendo: ma come puoi parlare tu che hai fatto... film horror che sono molto più commerciali secondo loro del comic movie nel momento. Finora, a parte Nolan, che comunque è ben lontano da Shining, cioè non c'è nulla che come l'horror abbia potuto. E poi l'horror nel senso come contenitore sono cose diverse, ecco. Ah, insomma, poi l'horror, cioè, a parte Cronenberg stesso che comunque ha girato signori film d'autore horror, ma cioè insomma basta citare un paio di nomi, tipo, non so, Romero, lo stesso Kubrick che hai detto tu, ma pure un Carpenter, insomma, andiamoci piano con le cazzate. Sì, sì, però sì, erano dei veri e propri horror. Shining lo considerate un vero horror? Vabbè, alla fine la matrice è quella, sì, io sì. La matrice è quella, insomma, senza sì. problemi lo considero un horror, è quello, è un autore che si confronta con un genere, lo fa suo, ma... Però se... Vabbè, è angosciante, se... l'horror è... qualsiasi cosa che uno voglia farci, insomma. Però se è condivisibile dire i film dei supereroi sono per bambini, per me è condivisibilissimo dire anche, e sembra un paradosso, i film horror sono per bambini, perché il livello è scandaloso, ma quello vabbè a parte, però è lo stesso discorso che si può fare sui supereroi, E poi sono veramente, non tutti ovviamente, ma di basso livello. Roba appunto. Vabbè, per bambini. Però scusa, comunque c'è un horror autoriale. Non c'è un supereroistico autoriale. Appunto, sì, quello con cui la frase con cui ho aperto, cioè è un paragone che non regge perché ad ora, compreso Batman, non c'è nulla che si avvicini a, che ne so, a Shining. È un paragone un po' forte, ma è così. Cioè, nel senso, con l'horror qualcuno, oltre alla monnetta che esce a pacchi, è riuscito a confrontarsi in modo artistico, autoriale con l'horror. Invece col fumetto si è tirato fuori del sano intrattenimento di qualità tecnicamente valido, ma non cinema d'autore, cioè non è cinema d'autore The Dark Knight Rises. Poi certo, cioè, l'horror è gran parte spazzatura, è il mio genere preferito, lo guardo purtroppo e lo vedo. Volevo solo dire che non regge come paragone, proprio per quello. E allora arriviamo alla conclusione finale, che sì, i film per supereroi sono per bambini. E siamo tutti un po' bambini, e quindi... No, nel guarda, senso, è difficile dire il contrario, visto quello che si vede ogni anno al cinema, insomma. Sì. Non puoi fare un film serio con uno vestito in calzamaglia. No, quello si può fare. No, nel senso, d'autore, ecco, come dicevamo prima, non è che puoi fare chissà cosa, rimane un film con uno in calzamaglia. Ma, non lo so, il fatto è che esiste il fumetto d'autore, non vedo perché non possa esistere il cinema fumetto d'autore. Certo, se non riesce a slegarsi da certe logiche di Hollywood è impossibile. Però non è una negazione a prioristica, insomma. Può esserci. È anche legato al fatto che si dipende sempre dalla fonte, cioè si adattano per lo schermo dei fumetti che esistono. E anche quando c'è roba d'autore come Watchmen, a chi la dai? A Snyder, che la banalizza e la rende un prodotto hollywoodiano, con tutta la fedeltà che ci ha messo, gli ha tolto quell'autorialità che aveva su carta, almeno io ho sempre sentito, anche se mi piace comunque come adattamento. L'ideale forse sarebbe usare il genere ma da zero, cioè costruire qualcosa, per esempio, è un paragone un po' strano, però Super, uscito recentemente, secondo me in un certo senso è cinema d'autore qua, cioè è un modo diverso di confrontarsi col fumetto, quindi perché no, cioè, si può fare, non per forza con ironia come Super, ma... Mi manca. No. Sì, ma Watchmen sarà pure d'autore, ma poi alla fin fine sono sti quattro deficienti con delle tute aderenti, non so, non riesco ad andare oltre questa cosa. Vabbè, ma il film... Vabbè, ma ironizza su quello, quindi cos'è? Cioè, parla di questo, di gente che si traveste, è una contraddizione. Non è Batman, che è un fumetto che parla di fumetti e dice, ok, sono persone che si travestono. Lo mette in mostra, ne dà una visione diversa, no? Anche Manhattan? È una presa in giro del supereroe non in calzamaglia, come Superman, che sì, è in calzamaglia. Cioè, una presa in giro, è una... Anche una riflessione. Una riflessione sul mezzo fumetto. Per questo è così famoso, non perché è una storia nuova di... È perché a posteriori riflette su tutta una generazione di fumetti e di lettori di fumetti. Vabbè, con quei muscoli Manhattan ne fa riflessioni, E poi mettilo da parte, prendi Fromel è per me, non che è più supereroistico, No, però parlavamo di fumetti. Secondo me ci sta anche questo, perché comunque quando in America dici comic book intendi tutti i fumetti, anche quelli che stanno sul cucciolone. Intendeva qualche altra cosa, intendeva proprio il fumetto supereroistico. Infatti sì. Quindi magari chi risponde sì, vabbè, la Mouse, come dicevi tu, ha un po' non ha capito il senso del discorso, insomma, di Cronenberg. Sì, è vero che lui l'ha fatto, no? Sì. Che appunto. Pessima la graphic novel, gran bel film il suo, però sì. Sì, credo che comunque fosse sottinteso, parlava di supereroi e poi fumetti, e l'associazione che uno dovrebbe fare quella. Non credo che parlasse del mezzo, anche perché lui è uno che l'arte anche visiva l'apprezza, quindi mi sembrerebbe strano. Sì, e vabbè, non so se volete aggiungere altro, ma... Sì, una news. Ah, vai. No, ma non c'entra niente con i supereroi. Ah, vabbè, dai. Ieri era l'anniversario del 25esimo anniversario tipo di Metal Gear Solid, e il responsabile della Sony ha detto sì, stiamo cercando di fare il film. L'ha detto a Tokyo davanti a tutti gli produttori della saga videogiochistica, eccetera. Quindi aspettatevelo, arriva. non è vero, sì, ma non è vero. Sa che già c'è, già c'è il produttore, sì, Avi Arad. Sì, ha proprio confermato il... bello, bello. Ma sì, c'è anche una... hanno fatto vedere anche delle immagini promozionali, già, quindi è proprio... almeno i presupposti ci sono, chissà. Ah sì, l'hanno già fatto, si chiama Metal Gear Solid 4 per PlayStation 3, era solo film. Abbiamo visto. Ma tutti Metal Gear Solid sono film, quindi, insomma, dai. Ma è un crescendo. C'era anche un po' di gioco negli altri. Un po' di gioco. Esaurito l'argomento, direi di passare al film protagonista di questo periodo dell'anno. Stiamo parlando ovviamente del Cavaliere Oscuro e il Ritorno, il terzo episodio della saga di Batman di Christopher Nolan. E non lo so, chi ce lo introduce di noi tre? Tu. Facciamo la conta? Hai recensito. Io? Ma io mi sento... vabbè, sì, effettivamente l'ho recensito. Ma è una cosa io. Così, un'introduzione, poi sì. Sì, vabbè. La trama in soldoni immagino che ormai la sappiate tutti. Sono passati circa 8 anni dalla morte di Harvey Dent. Di cui Batman si è accollato. Di cui Batman si è accollato la colpa, esatto. Sì, però se non ti funziona la lingua, cioè certe cose non ti riescono facili. Vabbè, sì. È l'emozione, sì. Batman, ci stiamo toccando. Difficile da dire. È fascista, io ho paura di fascisti. No, dicevo, sì, quindi sono passati 8 anni, dopo la morte di Dent è stato approvato un decreto omonimo, quindi il decreto Dent, che in qualche modo, non so se mi è sfuggito a me, ma nel film non si spiega in che modo è stato applicato questo decreto, no? No, non dice in cui consiste, ha arrestato tutti. Onoris causa. Sembra una cosa del genere, tipo processi per direttissima e via, insomma, in qualche modo il decreto Dent ha portato all'estinzione del crimine organizzato a Gotham, quindi insomma senza crimine organizzato Batman si trova disoccupato, infatti Bruce Wayne appende il mantello al chiodo e si ritira a vita privata, quindi a deambulare con il bastone, perché ormai insomma le giunture sono state compromesse da anni e anni di scorribande, e niente, quindi insomma in apertura vediamo che c'è una cerimonia patrocinata dallo stesso Wayne in ricordo di Dent, e lui insomma non partecipa a queste feste mondane, quella... E l'arrivo a Gotham di questa ladra Catwoman, appunto, che però nel film non credo venga mai chiamata Catwoman, semplicemente Selina Kyle, e l'arrivo del mercenario Bane costringeranno Batman a tornare e a farsi massacrare di botte. E quindi vabbè, questa insomma la trama in soldoni. Ma cosa come... vuole fare Bane? Sì, Bane vuole... vabbè, che aspetta, mo ci arriviamo. Ah, facciamo avevi, prima... avevi tagliato lì. No, facciamo prima il preambolo che abbiamo già fatto sugli spoiler, ovvero... noi qua ve lo diciamo, non accettiamo quindi poi proteste. Faremo degli spoiler, assolutamente, perché cioè, non ce ne tiene di starci a riflettere troppo su queste cose. Quindi, se non avete visto il film e non volete rovinarvelo, sappiatelo fin da ora che vi conviene... skippare, magari stoppare la puntata e risentirla dopo che avete visto il film. Tutto qua, no? Sì, dai, dai. Mettiamoci anche uno stronzi. No. Batman muore! Vabbè. Ok. E vabbè, quindi insomma, non lo so, stai aggiungendo qualcosa tu, Monco? No. Su Bane. Cosa voleva fare Bane? Ah, sì. Bane, maialino coraggioso. Bane va in città. No, perché devo dirla io la trama? Non l'ho capito. Bane... No, non lo so, non capisco che volevi aggiungere. Il fatto che il piano di Bane volevi spiegare in soldoni? Eh sì, quello. Vabbè, insomma, primo spoiler della serata. Bane è un seguace della Setta delle Ombre e sotto il comando di Talia al Ghul. Vabbè, però scusa, se hanno già visto il film, che glielo spieghiamo a fare. No. Non ha senso. Stiamo facendo una cosa senza ragazzi, senso, no, dai. Spoilers, Passiamo direttamente al commento. Allora, io avevo detto pure qualche giorno prima che avevo visto i primi 20 minuti in lingua originale, no? Sì. I primi 20 minuti a me sembra tipo quelle reunion di Star Wars che sono state occultate da Lucas, dove tipo che Han Solo e Chewie tornano sul pianeta dei Wookiee, no? Perché ci stava la moglie, il figlio di Chewbacca. Special di Il Natale. tono, eh sì, il tono è un po' tipo ci stanno le comunità, oh, stiamo a fare il seguito del filmone, oh, dai, tutti così, ma io quando lei è tornata a Gotham ho sperato che non ci fosse più quella, insomma, il tono era un po' sembrato da latte alle ginocchia, infatti era un po', le aspettative erano un po' di Anche il erano un fatto po' di svanite. iniziare con quella scena di Gordon, che a me è sembrato molto strano, anche brutto a vedersi, no? Quei pochi secondi, il discorso di Gordon, poi il prologo che è famoso di Nolan, che fa sempre vedere prima, e poi di nuovo il discorso di Gordon, quello nuovo dell'anniversario. Cioè, cosa serviva? Ci ricordiamo cosa è successo, anche perché poi viene ripetuto 3 volte. È stata Ma strana. anche il prologo, cioè, Dio, cioè, adesso mi contraddico un attimo perché quello che dirò successivamente è che un film non va giudicato in base ai prequel, però viene comunque naturale confrontare i primi 20 minuti del Cavaliere Oscuro con i primi 20 minuti del Cavaliere Oscuro Ritorno, esce un po' massacrato, perché io ricordo il ritmo del Cavaliere Oscuro era altissimo sin da subito, qua invece c'è più rilassamento, più capisco che magari è anche in linea col personaggio che ormai è diventato un vecchiaccio col bastone, però insomma Ci sarei non arrivato potevi farlo anch'io. addormentare, La stessa impressione, perché comunque è una scena che dovrebbe essere potente, no? L'aereo, ovviamente, anche non volendo, come fai a non confrontarla con i pullman del secondo film? Che sì, evitando il discorso forzature dei pullman, non ce ne frega niente. No, quelli torniamo proprio fuori perché c'è Era veramente molto più mazzo potente, no? nevato. Il piano del Joker, il banchiere che esce fuori col fucile, cioè era. Ti preparava bene, qui invece dovrebbe essere ancora più efficace perché c'è una scena assurda. A parte che boh, a me ha fatto effetto il doppiaggio, cioè appena sentita la voce di Timmy, a me mi ha smontato qualsiasi entusiasmo. Non so, non dovrebbe succedere perché è il doppiaggio, va bene, però davvero mi ha distrutto il personaggio. È un incipit rovinato. Se poi è vero, è tutto troppo disteso. Poi questa cosa, Gordon, l'aereo, poi di nuovo Gordon, poi. Alfred che deve fare il discorso come se non ci ricordassimo già tutto, sì, è un po' Un po' scemo, spiegone, sì. un po' didascalico, un po' troppo posato. Perché nel 2 non era servito, qui non è che sia passato così tanto tempo a livello di film, quindi Ma è l'ultimo potevano. capitolo. Vabbè, cosa c'entra? Ce lo ricordiamo cosa è successo. Nelle puntate Tu precedenti. sì, magari Contando che altri dura no. 3 ore, cioè 2 ore passa, pesano quelle 2 ore passa. Una spuntatina all'inizio gliela avrei data. No, Ma dura anche poco comunque lo spiegone. Non ho, cioè, no, però 10 minuti. boh, secondo Sì. me Sì. è lungo. Vabbè, insomma, per fortuna poi il film decolla perché fosse tutto così veramente io non l'avrei letto, francamente. E niente, quindi diciamo, poi il film decolla, insomma, arriva questo Bane che sebbene il doppiaggio tarpi un po' reali alla caratterizzazione, resta comunque secondo me un buon villain, almeno fino alla dipartita un po' ridicola. Però nel frattempo in cui è utile alla causa, è comunque un villain molto efficace, diverso da Joker perché comunque è basato tutto sulla fisicità. Gli vengono messe in bocca un po' di frasi fatte, non tutte, però ovviamente ogni tanto si ha un po' la sensazione che sia troppo costruito, però grande recitazione di fisica di Tom Hardy. Ho sentito alcuni spezzoni in lingua originale, mi è sembrato che anche il lavoro fatto sulla voce sia stato molto, molto ben fatto, insomma, a differenza comunque del doppiaggio, che poi vabbè. Il doppiaggio è un po' come sentire una reinterpretazione, quindi sì, che non si è riuscita, un difetto diciamo dell'edizione italiana che può compromettere poi comunque il giudizio di uno spettatore italiano, insomma, questo sì, però fondamentalmente è un difetto relativo. E niente, quello che le mie impressioni, insomma, l'ho già espresse nella recensione, lo trovo un film, una degna conclusione di questa trilogia. Però insomma, i difetti che molti stanno utilizzando per giustificare una bocciatura anche in relazione ai film precedenti, Insomma, questo modo di agire lo trovo un po' ingiusto, anche perché secondo me i difetti del Cavaliere Oscuro e Ritorno sono difetti che Nolan si porta avanti, come diceva qualcuno oggi sul forum, dal dopo The Prestige. Perché comunque The Cavaliere Oscuro, Cavaliere Oscuro e Ritorno e Inception sono caratterizzati da piani che sono basati su botte di culo, interventi divini di fortuna che non ci si spiega se non con l'illogicità, e non lo so, buchi di sceneggiatura più o meno evidenti. Insomma, non è un difetto del Cavaliere Oscuro e Ritorno, magari sono più evidenti perché forse questo film è stato ucciso dalle aspettative, secondo me. Sì. E perché il Cavaliere Oscuro è stato oltremodo mitizzato, così come la figura di Nolan. Non so se voi la pensate in maniera diversa al riguardo. I difetti singoli magari ne parliamo dopo, però è vero. Sembra quasi che molti si dimentichino di cosa succedeva in The Dark Knight, che anch'io credo di reputare superiore, ma per altri motivi, il ritmo, come dicevi tu. Però anche lì cosa succedeva? La cosa delle barche, il piano del Joker in generale, era una cosa alla Inception, cioè articolatissimo, interamente poi basato sulla fortuna, sul caso, e poi cosa succede? I detenuti su una nave o piuttosto che sull'altra, insomma quello che succede, senza, vabbè, l'abbiamo detto, puntata no, a spoiler. Non solo basato sulla fortuna, basata anche sulla io capisco le tue intenzioni, sì. Cioè, basandosi insomma. Poi su cose che, proprio perché i piani sono così assurdi, è questo che cozza, cioè c'è questo piano architettatissimo che poi va a scontrarsi con i Deus Ex Machina, di cui c'è abbondanza, buchi, ingenuità, forzature, insomma stona, no? Perché tu ti trovi davanti a queste cose improbabili e poi dopo ci trovi dentro, però il caso, il personaggio che magicamente deve fare qualcosa per risolvere punta un po' più in basso e cavatela meglio, ecco. Sì, questo è, come ho messo anche nella recensione, l'artista della Pixar diceva bene, se utilizzi questi strumenti per cacciare fuori i personaggi dai guai vuol dire che stai barando. E comunque lo spettatore, se insisti su quel punto, l'abbiamo visto anche con i pareri di questo refilm, insomma, alla fine se ne accorge. Sì. Anche se prima non se ne era accorto, e vabbè, quello è un altro discorso. Monco. Un racconto di vita vissuta in inizio. Quando stava per partire il film, che ho visto insieme all'Intrinseco, c'è stato un quarto d'ora di ritardo e il clima nella sala era parecchio caldo. Poi è partito i trailer e li hanno, insomma, è andato tutto in casino, li hanno skippati, saltava, spegnevano di nuovo le luci, le riaccendevano. C'era la paura che uno alzasse il mitra e facesse una strage di nuovo. È stato bello. Forse la parte più emozionante della serata. C'è troppa roba. Per esempio, ecco, Selina Kane. Come si chiamava? Kyle. Però nelle versioni preliminari delle trame che circolano in internet era stata definita Kane. Quindi... Ecco, vedi. Ecco, era la figlia di Kane di Quarto Potere. Vabbè. Se la togli completamente dal film, non ne giova parecchio. Cioè, no, ma levala, cosa serve? È risolutiva in 3-4 situazioni. Vabbè, è il Deus Ex Machina per antonomasia. Lo fa cadere nella trappola e salva la città alla fine. Poteva andarci nella trappola in mille altri modi, senza uno che la portasse. Sì, il fatto che sia personificata, secondo me, è anche meglio di Dark Knight, in cui Deus Ex Machina invece. Cioè... sono i Deus Ex Machina veri e propri, nel senso che non, cioè, sono botte di culo. Poi invece c'è un personaggio che ci pensa sul fatto di salvare o no Batman, alla fine decide di salvarlo e uccide ignobilmente il cattivo che fino a un quarto d'ora fa tu adoravi. Io adoravo? No, in generale dico, cioè, comunque è un cattivo che fino ad allora sembra imbattibile e nel giro di 5 minuti diventa prima uno zerbino, secondo un piagnone, terzo viene eliminato da Catwoman in sella a una moto, insomma. Ho sentito dire che quella scena non era scritta, perché non so se vi ricordate che Selina Kyle, alias Anne Hathaway, aveva già fatto un casino con la moto sulle scale, no? Aveva spaccato una telecamera, e anche quello è un incidente. Ah, sì. Ha investito Tom Hardy, però ha detto, vabbè, lasciamola, è buona. Mamma mia. E vai, continuiamo un po'. No, beh, che alla fine lo ritengo un buon capitolo. Sì, anch'io lo ritengo inferiore al secondo, non al primo, che è orripilante. Però addirittura non lo sopporto il primo. E sarà Liam Neeson, e guarda cazzo ritorna anche qui, due scene, quindi... no. Sì, scritto bene fino a un certo punto. Sarà che appunto a paragone con altri film di supereroi questo qui è una chicca, è proprio irraggiungibile. Però poi queste forzature di mettere di nuovo vari personaggi che abbiamo visto nella saga, proprio per dire, oh, questo è il capitolo conclusivo, quindi facciamo una mega reunion, li riportiamo tutti e poi chiudiamo qui. Sì, sono andato un po' forzato, soprattutto visto che parlavamo di fanservice l'ultima puntata, anche qui sembra che, come si chiama il personaggio di Cillian Murphy? Crane. Crane che spunta fuori dal nulla così. Vabbè, ma anche nel 2 era messo lì. Vabbè, sì. Anche... È un McGuffin quello, insomma, sta lì, è un personaggio che ogni tanto lo ricaccia. Allora Ra's al Ghul. Razza al culo. Sì. Ritirare fuori la sua storia, rimetterlo nel tra... Però secondo me questo è stata necessità dovuta al fatto della morte di Heath Ledger, perché secondo me ha necessità di una pesante riscrittura. Indubbiamente. E il fatto di non volerci mettere di mezzo Joker ha diciamo indotto gli autori a fare riferimenti a Batman Begins, e Batman Begins era Ra's al Ghul. No, indubbiamente, però rimane il fatto che questi riferimenti ci sono, quindi capisco che non hanno potuto mettere il Joker, però... hanno messo il resto e insomma sembra un po' forzato. E poi è la fase finale, molto troppo spettacolare, troppo da filmaccio, quelle scene lunghe 20 minuti in cui succede l'impossibile, invece il timer della bomba è passato un minuto. Sono cose che non mi vanno giù, o anche Batman, Wayne che torna dopo, cos'è, mancano 12 ore alla fine del mondo, cioè alla fine di Gotham, e lui arriva col suo giubbottino, e ciao, allora come va, ci facciamo un giro, no aspetta, facciamo questa cosa, anzi prima di fare tutto organizzo anche questa roba che parte sulla fiammata e viene fuori il mio simbolo sul ponte. Vabbè, ma quanto ci ha perso? Ci ha perso 4 ore, potevi salvare... Stai là con l'orologio, dai, cioè... No, poteva salvare la città con 4 ore d'anticipo. Sembra che lo stia aspettando sotto casa. Mancano 12 ore quando lui si fa catturare, se non sbaglio. Sì, vabbè. È tutto preparato prima, arriva lì e il piano era già pronto. Poi comunque il montaggio dovrebbe dare un'idea di sovrapposizione. Sì, comunque sono troppe cose in 12 minuti, però... non è così schiaffato dentro, alla fine è molto tagliata. A me non è piaciuto questo, invece, che c'è un po' troppa, quando c'è da montare freneticamente sembra che vada un po' tutta puttana. A me non è piaciuto questo. Poi invece riguardo a quello che dicevi del ritorno di certi personaggi, secondo me, a prescindere dall'assenza di Joker, cioè essendo l'episodio conclusivo, per forza di cose il passato deve tornare, quindi lui deve riaffrontare certe cose. Credo che Ma non è per forza di cose, puoi anche chiuderla in un altro modo. Non è che il passato deve tornare per forza. Cioè Ra's al Ghul era morto. Perché è un nuovo personaggio, c'è un legame che tra l'altro credo dipenda anche dai fumetti, non ho letto bene tutto, ma se non sbaglio il fila per la figlia di Ra's al Ghul viene ritirata fuori dopo, quindi nel senso è un rimanere fedeli alla fonte. Ra's al Ghul è tecnicamente immortale perché ha scoperto i pozzi di Lazzaro che gli permettono ogni volta di guarire, un po' come non so se vi ricordate in Wanted, sì. Quel film d'azione dove praticamente sì. Se ti sparavano ti mettevi nella crema bianca e tornavi come nuovo, no? I pozzi di Lazzaro funzionano più o meno così. Beh, anche Liam Neeson è immortale nei suoi film, quindi a parte Star Wars è l'unico dove muore. Però scusa, no, è perché poi insomma sì, sì. La tecnica della... È vero, è vero. Anche lì. Anche lì. Davvero, trovatevi un film dove muore Liam Neeson. Male, ecco, non esiste. Forse in The Grey, ma non lo sappiamo. È appunto, no, appunto. O meno. Ah, aspetta, news. Sta per uscire The Grey in Italia. Sì, l'ho letto pure io. Man mano tutti i film che abbiamo detto stanno uscendo tutti, perché non mi ricordo quale altro dove uscì, ma... Bello che esce al cinema dopo che è uscito in Blu-ray nel resto del mondo. Credo, il film del camionista argentino non esce. La Sagacious però esce in negli Stati Uniti. Ah, ecco. 7 settembre. Che figata. Chissà. Con uscita, non credo wide, però almeno in limitata, sì. Ma cosa c'entra con Spider-Man? Con Superman, no, con Batman. Però vabbè, allora, abbiamo un po' detto tutto il male. No, io ne ho ancora, aspetta. Ah, vabbè, mamma mia, quanta credine. Vabbè, no, così chiudiamo con le critiche. Lo carno. No, visto che abbiamo detto, perché si tende a sottolineare gli errori in qui quando erano già presenti nei precedenti. Sì, però io almeno ho notato qui, più che nei film precedenti, dei problemi che mi hanno dato un po' fastidio. Intanto, vabbè, al di là di quelli già detti, qui mi sembra che rispetto a The Dark Knight si tenti di più di creare una storia corale. Un po' perché comunque ci sono 5-6 personaggi nuovi in più. E non è come Spider-Man 3, dove c'è un cattivo di troppo, però l'impressione è che sia un po' troppo affollato, non perché non si possano gestire. Pronto? Ed è morto! Non si può Jess, anch'io. Non ci può Jess. Jess te ne sei andato per 15-20 secondi. No, a che punto non si può Jess macchina, buono. Guarda, stai a parlare all'inizio quando hai parlato dei personaggi. Niente, sono... Non sembra Spider-Man 3, ma... Niente, che sono troppi e c'è una necessità di farli stare in questa durata che è sì lunga, ma non abbastanza lunga. Quindi si passa da uno all'altro con un ritmo che sì, veloce, ma non rende il film veloce. Tu dicevi dopo decolla. Sì, ma neanche tanto. Io l'ho trovato faticoso, al di là dei sedili scomodissimi che il nostro cinema. Però è davvero cioè, gestisce male questa folla di personaggi, e infatti poi si alternano male questi momenti in cui, non dico non succeda nulla, però c'è calma, no? Ci sono dei pezzi molto lunghi in cui tutto sommato si temporeggia, si discute, ah, come ti ricordi, i tuoi genitori sono morti, ah, ok. Insomma, si ripercorre il passato, si fa rivedere il flashback 3 volte, perché questo non era fondamentale, e poi alla fine ti trovi nell'ultima ora a dover far quadrare tutti i conti, e poi sì, succede quello che diceva lui anche, no? L'ora, il tempo che sta finendo e deve succedere tutto all'ultimo. Cioè, secondo me poteva giocarsela molto meglio, cioè, c'è roba in più che poteva benissimo essere diluita. Poi appunto arrivi al finale, quello che succede, il pozzo, l'assedio di Gotham, cioè succede tutto in pochissimo tempo. Quando... Sì, secondo me, vabbè, come hai detto tu, un po' l'effetto reunion non scompare mai nel film, perché sì, la necessità di alcuni dialoghi anch'io ho trovato un po' superfluo. Sulla gestione dei personaggi non lo so, sinceramente a me è sembrata che la gestione dei 4 personaggi principali, anche mettendone da parte qualcuno man mano durante il film, non fosse poi così malaccio, anzi secondo me i 4 personaggi vengono gestiti bene. E, più che altro io, questa cosa del montaggio, secondo me, come diceva Cronenberg, sì, Nolan ha un certo grado di potere sulle sue pellicole, ma non poi così spiccato, nel senso che comunque alla fine, come il monco, arriva il produttore con l'orologio e fa, oh, qua, allora, il minutaggio? Insomma, non stiamo a esagerare un po', in fondo è un film di 2 ore e 40 e normalmente i blockbuster si attestano sulle 2 ore. Quindi secondo me lui ha voluto prendersi, diciamo, il tempo per narrare comunque una storia che è abbastanza dilatata, è abbastanza, non è compressa, nel senso che comunque la vicenda si prende lo spazio di 5 mesi, mi pare. Sì, sì. All'incirca. Sì. Poi però a un certo punto effettivamente quando Bruce Wayne riesce a uscire da quel dalla prigione, la situazione è un po' precipita, magari non lo so, sembra quasi che a un certo punto veramente stava per finire il budget, ha dovuto un po' sbrigarsi. Vabbè, ma non è che... Sinceramente a me quel ritmo non è manco dispiaciuto, e fondamentalmente se fosse continuato su quella linea non ne avrei risentito, quelle 2 ore e 40 sono passate come niente. Però sì, non lo so, sembra effettivamente che a un certo punto qualcuno gli abbia detto sbrigati perché qua se no finiamo col 3 ore. Vabbè, però non è che lo girino in ordine cronologico, cioè non è che da un certo punto in poi. Poi a me la impressione viene da tutto il film. Sì, la prima parte è più o meno uniforme come il ritmo, però non è che parlo di ritmo faticoso, dico che è un po' un elastico, cioè mi prendo tempo e devo stringere, mi prendo tempo e devo stringere, cioè un po' così, va un po' a fasi alterne. E poi si creano quei problemi che dicevamo prima. Cioè, mi sembra a livello di sceneggiatura anche, il montaggio non è solo il montaggio alla fine, cioè si monta in base a un'idea. E secondo me, sì, può darsi anche che avesse sparato troppo in alto, come dicevamo prima, però insomma, ci pensi prima a certe cose, non è che stai girando e ti dicono taglia corto, cioè le ultime scene magari le ha girate all'inizio, e quindi credo che semplicemente sia un problema di scrittura e di incapacità di gestire una storia corale, tutto sommato. Poi tu dicevi i personaggi, sì, ci sono quelli, io parlavo appunto di coralità, cioè di anche quelli secondari che magari non hanno uno spazio grande, ma cioè il personaggio di Matthew Modine, che tra l'altro torna al cinema, sì, quello proprio, a cosa è servito? Cioè, a me mi sarebbe anche piaciuto farlo di più, perché è un attore che mi piaceva, ha fatto dei bei film da giovane, però è lì, messo lì, non è davvero utile a qualcosa, è anche forzato, presenza, ma... sì, non è simpatico, però arriva lì, ti dice ah, dobbiamo fare così, cos'ha, perché... sì, sì, ma immagino che fosse Di faccia, ma no, sì, sì. E che invecchia un po' così, si è ingrugnito, però è quello di Bird, di Le ali della libertà, vabbè. Vabbè, quello di Full Metal Jacket, dai. Anche. E... chi se ne frega. E, insomma, cioè, viene messo lì, ha un'idea, il momento dopo è un cacasotto, di nuovo è lo spavaldo, pom, te lo trovi per terra morto, cioè... la scena della morte, che qualcuno ha fatto storce il naso, effettivamente è un po' una... una caduta di stile, perché... non tanto come muore, ma semplicemente perché lo devi mettere per forza e poi te lo giochi così in due scene, cioè non ha senso. Sì. Cioè, o fai la scelta diplomatica alla Spielberg e non fai vedere i cataloghi, cadaveri, che non fai vedere i cadaveri, oppure fai vedere tutto. Oppure non metterlo, cioè se lo devi trattare così male. Un po' in generale, i personaggi minori, cioè, un po' di folla, non è quello dicevo prima, uno Spider-Man, non è così caotico, non è così brutto a vedersi, però si vede che è faticoso per lui gestirne così tanti. L'ipertrofia del terzo episodio non si sfugge. Sì, è effettivamente una costante. Niente, che altro che... m'ero segnato qualcosa da dire, però sinceramente non me la ricordo, quindi direi che possiamo passare anche ai pregi, magari. C'è anche un ospite, eh? Ecco, è arrivato, sentite? Dottor Pavlov. Cosa è successo? Tini alla gogna. No, ma per favore ai doppiatori, non fate più la voce da russo, vi prego. Io posso dire... Cioè, veramente, non fatela, guarda, è una cosa triste, veramente. Io posso detonare bomba. Navi nucleari atomiche. Vabbè, no, passiamo ai pregi, dai. Il momento che secondo voi è il migliore di questo film? Secondo me è proprio... Il Monco nessuno, lo sappiamo bene, il Monco lo odia. No, vai. Vabbè, se vuoi giocartelo subito. Vai, Monco, dillo, dai. No, io non ho detto niente, andate voi, era il silenzio. Mi è piaciuto il silenzio. No, ma seriamente non ti è piaciuto a sto livello? Ci penso dopo, voi intanto parlate. Vabbè. Ma io dicevo il film in generale. Ah, ma no, non è che non mi è piaciuto, è che ancora adesso non so cosa dire, mi ha lasciato completamente indifferente, ma non vuol dire che lo bocci, ma neanche che lo promuova, è lì a metà, forse tra un paio di mesi dirò qualcosa, non lo so. Ma invece, su The Dark Knight invece qual era il tuo parere? Beh, quella è una figata. Ah, beh, quello è proprio il migliore finora tratto da fumetti supereroistici. Questo no, comunque sì, sufficiente, magari... non lo so. Non so, a me ad esempio mi è piaciuta di più l'impostazione da film alla Man di simil poliziesco, insomma, non so se te... Dalla non mano? Se... Alla Man! No. Questo mi è sembrato comunque una roba diversa, completamente diversa dal secondo. Sì, anche stilisticamente... Alla Man è il secondo o il terzo, dici? Sì, il secondo. Ah, il secondo. Sì, allora ok, sì, ok. Deve tantissimo a Hit, secondo me. Sì, il pagliaccio, sì, è vero, il Joker. Vaffanculo. No, ecco, mi sono ricordato quello che volevo dire all'intrinseco. Secondo me però il ritmo elastico c'è anche in Dark Knight. Sì, ma qui l'ho sentito di più, forse perché è un po' più lungo. Non so, nel senso, te l'ho detto, ho notato gli stessi difetti. Quindi sì, nel senso c'è anche lì questa situazione, però meno personaggi, un po' meno lungo. un po' meno cose da rivelare e quindi funzionava meglio, però sì, insomma, ti ha pesato di più, insomma, in questo. Sì, per questo è più ecco, vabbè, visto che parliamo di pregi, a me è piaciuto, messi da parte i difetti, il finale, cioè anche il colpo di scena, qualcuno ha definito telefonato, io ci sono arrivato, sì, non prima quanto gli altri, ho letto qualcuno alla cicatrice, già aveva capito, io sì, ci ho pensato lì, perché lei racconta la povertà da giovane, l'ho intuito, però poi mi sono ricordato, e l'ho scritto anche sul forum, che quando hanno detto il cast sarà questo, questo e questo, dissero subito che Marion Cotillard sarebbe stata Talia al Ghul. Ora, però aspetta, quando parliamo di finale devi spiegare bene quale, perché comunque è un film che... Sì, sì, no, no, ho aperto questa parentesi, poi ci sarei arrivato. Sì. Cioè, questo spoiler a distanza di mesi, io me lo sono ricordato dopo averlo intuito, per fortuna, non mi ha rovinato complessivamente la cosa, però chi è che l'ha messa in giro questa cosa? Cioè, ok, dici qual è il cast, ma fermati lì, anche perché nel film lei ha un nome falso, metti quello. Hanno detto subito, cioè, il colpo di scena, quello principale, se lo sono giocato mesi fa, per fortuna è passato un po' di tempo, vabbè. Sì, comunque... Mi è piaciuto il finale non tanto perché c'è lo scontro, che comunque sì è bello, ma perché paradossalmente si torna un po' al fumetto, no? Cioè, nel film precedente hai detto c'è il paragone con It, comunque uno stile, una regia diversi, quasi poliziesco, noir. E qui invece cosa succede? C'è un cattivo con la maschera che deve raccontare il suo passaggio, è come succedeva nei fumetti, no? Chi è questo Bane? Sì, i flashback non li gradisco mai, però... Cioè, questa cosa di dover raccontare le origini, di dover spiegare un personaggio, il colpo di scena, se si ritorna proprio a una dimensione più da fumetti, almeno io ho avuto questa sensazione, anche il caos, l'esagerazione, in un certo senso l'ho apprezzato, il fatto di chiudere in caciara, fino a un certo punto, in caciara. Cioè, anche il colpo di scena è bello, cioè la vendetta in quel modo, al di là del monologo di Marion Cotillard, che giustamente qualcuno diceva, ma scusa, ma quelli stanno a sentire tutto il suo discorso quando mancano 5 minuti all'esplosione della bomba, chi se ne frega, lasciatela morire. Ma sì, ma infatti, facciamo come il monco che stiamo sotto casa, ma hai detto che eri pronto fra 5 minuti fa e ancora non scendi, dai. Cioè. Sì. No, però dai, quella, a me non piace cercare il pelo, però in questo caso era brutto, cioè, era esplosa la bomba ormai. E loro la stanno a sentire, ma no. Anche perché in fondo ribadisce un concetto che era già chiaro. La vendetta, mio padre, ce l'abbiamo fatta lo stesso. Lasciate lì Gordon e Batman, intanto va. No, stanno tutti lì a guardarsela. Comunque, ho apprezzato questi risvolti, no? Il fatto che Bane, sì, sacrificatissimo, però è lo strumento di qualcun altro. Non lo diresti mai, o ci arriveresti dopo un po', ma... È una bella sorpresa, no? Uno strumento, il classico tool, l'energumeno, per fortuna non quello di Batman Forever in mano a Poison Ivy, però quasi, no? Sì, se non altro è coraggioso, perché io ricordo pochi film in cui il cattivo per tutto il film ha comunque una presenza scenica abbastanza consistente e poi alla fine si rivela solo una pedina. Sì, è un po' come in Star Wars. Almeno nell'ambito supereroristico. Come Star Wars, tu hai l'allievo e alla fine scopri che c'è un maestro. A me è piaciuto come soluzione. Ma anche questa morte di Bane, sì, è un po' così, perché te lo pompano per tutto il film. A me non è dispiaciuto neanche vederlo liquidato così. Insomma, ormai è passato oltre, cioè il cattivo è un altro, va bene, liquidiamolo. E del finale invece, diciamo, il primo finale, sì. Quello dell'esplosione? Anche qui mi ha dato fastidio una cosa che ho letto in altri lidi, cioè il fatto che devono anticipare per forza tutto. Uno fa tanto per dire che Nolan deve fare un cinema un po' più adulto e poi mi devi fare per forza la presentazione all'inizio con Alfred che dice io speravo di vederla... a Venezia, incontrarla lì. No, aspetta, io dico la scena immediatamente per prima. Quella dell'esplosione vera e propria. Cioè, Batman che prende la bomba. Sì, anche quella. Te la menano un po' troppo con il pilota automatico. Non c'è il pilota automatico. Non lo usi. No, lo sistemo io. Era un po'... Cioè, quando non c'è la sorpresa perdi metà del gusto in certe cose, secondo me. Però è una scelta che condivido. Cioè, chiudi la trilogia, chiudi in quel modo. Non è proprio una cosa radicale come una morte vera. Però ci sta, ecco. Magari giocarsela un po' meglio, non farmelo sapere per forza prima, cioè, se me lo dici tre volte, quella cosa del pilota automatico, io intuisco, come anche quello che dicevo di Alfred, che deve far vedere che sta aspettando, io sognavo di incontrare, cioè, sono tutte le tre cose che messe insieme ti fanno dire, ma, insomma, dov'è la sorpresa? Mi freghi o va come mi aspetterei? E poi cosa sarebbe stato bello? Un finale alla Inception, e me lo aspettavo, invece non l'ha fatto. Alfred che alza la testa, saluta, fine, e non sai chi ha salutato, cosa è stato. Uno dice, ma era un suo amico, era Batman. Oppure sì, era bello che vedere... Se, che poi se tu guardi l'espressione facciale di Alfred, non sorride né fa particolari ammiccamenti. Quindi secondo me è stata un po' giunta alla fine quella l'inquadratura con Wayne e Selina Kyle, perché effettivamente non saluta Alfred, alza la testa, sembra quasi annuire. No, ma l'aveva... Poi si rimette su Fernet. Durante il film diceva che non l'avrebbe neanche salutato, e sarebbe stato un cambio di sguardi, e bastava quello, non si sarebbero detti niente. Ah, questo me l'ha sfuggito, sì. Ok. No, ma sarebbe stato sì, bello, come dici tu comunque. Sarebbe stato bello anche se Bruce Wayne era vestito da Batman al bar. E lei da Catwoman. Il figlio, era inspiegabilmente già un figlio lui. Sì. Sì. Però lui col vestito da Batman. Però i vestiti quelli degli imitatori dell'inizio del 2. Sì. Quelli, le imbottiture da football. Sì, però vedi anche qua quello che dicevi tu, cioè Nolan che si ripete. È vero, non ricorda pericolosamente Inception, no? Questa cosa di anticipare. Tra l'altro con Michael Caine, no? In Inception lui vedeva 3 volte l'immagine dei figli che poi rivedi alla fine. Cioè, insomma, non so se glielo fanno fare, come dici tu, perché così diventa un marchio riconoscibile. Però è vero, si ripete, cioè tende a scadere un po' nelle stesse meccaniche, no? Piani complicati, falsi finali, questo mettere indizi un po' troppo insistentemente, no? Beh sì, ma è un po'... rifà sempre se stesso, eh? Forse è già entrato in un loop di matrice bartoniana. No vabbè, dai, così grave no. No, però... Sì, insomma, sarebbe bello diversificarsi un po'. Avendo finito questo, uno spera magari che sia proprio l'occasione per staccare con quel cinema. Ma i suoi soldi li ha fatti, i suoi bei film li ha fatti, boom. E il Monco stava aggiungendo forse un'altra scena che gli è piaciuta. Un'altra. No, perché stavi continuando e poi t'ho interrotto, quindi non lo so. No, che appunto vedeva Batman vestito da Batman, no. Ah, vabbè. No, vabbè, sul finale volevo solo dire, sì, anch'io mi lamento sbatto i pugni sul tavolo, tutti quei finali uno dopo l'altro, che abbiamo anche scoperto che la nostra era vera, che Robin era il poliziotto, vabbè, quindi un finale dopo l'altro, ammazza e palle, non finiva più quel film, E poi sempre sul finale, come appunto in quei 10 minuti di film ne passa solo uno, e invece i 3 mesi in galera, tutta la preparazione del piano di Bane, la città sotto scacco, passano relativamente in quanti? 4-5 minuti su schermo, quindi è gestita malino. Però ho la scena che mi è piaciuta, l'inizio della rivoluzione, con le esplosioni, i tribunali istituiti, lui davanti al carcere, Bane che fa tutto il discorso, riprendetevi la città, quella è bella e maestosa, mi è piaciuta. Tra l'altro mi sembra solo con un accompagnamento musicale, ma senza effetti sonori, come un po' quando Due Facce nel secondo episodio ricordava Rachel. Esatto. Su quel genere, insomma. Sì, infatti è una bella scena. Ma io volevo aggiungere qualcosa sul finale, sebbene sì, tutte le cose che avete detto voi sul fatto che sia un po' prevedibile, io parlo dell'esplosione di Batman che prende con il Batwing la bomba e va ad esplodere a largo, no? Mm-hmm. Però per come è stata girata, comunque io che al personaggio c'ero affezionato, nel senso che comunque amo anche i fumetti, lì il magone un po' mi è sceso, che mi ha emozionato in maniera sincera, quindi secondo me anche se il film fosse finito lì, forse sarebbe stato meglio di quello che succede dopo, perché diciamo che non ho mai apprezzato il terzo giorno resuscitato, insomma non è mai funzionato. Ma anche senza me. Forse. Ma sì, avrei tagliato proprio tutto, neanche il volto di Alfred, che forse riconosce, forse no. Cioè l'avrei proprio fatto, non so, il volto di Blake che si illumina un po', e il dubbio, cosa è successo. Anzi, senza dubbio, cioè magari morto lì, chiudi, guarda, sarebbe stato coraggioso, no? Il finale di Blake tutto sommato ci sta, perché vabbè, non è manco il fatto che comunque è stato utilizzato per offrire una finestra a un eventuale sequel, mi dà fastidio, quello ci sta. Però come dici tu, quello di Michael Caine, Lucius Fox che scopre che c'era il pilota automatico, insomma, non è che mi siano piaciute tanto quelle cose lì. E vabbè. Detto questo, poi vabbè, l'altra scena che mi è piaciuta, che l'ho già detto anche in recensione, è quella dello scontro, il primo scontro corpo a corpo tra i due, che insomma mi ha ricordato Cronenberg, e lì c'era la citazione molesta, come ha fatto notare qualcuno successivamente su Facebook. Stefanato. grande Stefanato. E, però come dicevi tu, non è che mi è piaciuta particolarmente per come è girata. Come dicevi tu, è il fatto che si arriva a quella scena con una certa intensità per come sono stati dipinti i personaggi, come è stata dipinta, diciamo, la loro rivalità. Il fatto che sono due personalità nettamente, cioè, antitetiche, che si scontrano, questo è affascinante. E poi effettivamente, non come è coreografata, ma come è stata girata, insomma, senza accompagnamento sonoro, solo con gli effetti di questi corpi enormi che si sbattono l'uno contro l'altro, insomma, mi è piaciuta molto, ma molto fisica, molto, molto intensa, ecco. Sì, ma è quello, io ho scritto quello perché anch'io non condividevo questa, cioè anche lì si parlava del discorso di Cronenberg, no? Che uno vede la scena e dice: ah, che bella. Sì, non è che è girata particolarmente bene. Mm-mm. È bella perché c'è dietro qualcosa, mi sta bene, lo condivido, anche perché è una bella scena, soprattutto perché lì c'è il dramma, un po' perché io sapevo e comunque si intuiva cosa sarebbe successo, quindi sì, sei lì, anche, avendo letto, ecco, una delle cose poche che ho letto su Batman è Nightfall, avevo dato un'occhiata, e poi comunque era risaputo cosa succedeva, c'è quella suspense. Lascia comunque il fiato. Ecco, invece dopo è un combattimento identico, quello nel finale davanti alla Corte di Giustizia, però non c'è dietro quello, cioè sai che andrà in modo diverso, però sono due scazzottate, e va bene questo, sì. Cioè uno è un energumeno, l'altro è un vecchietto ormai, comunque un uomo acciaccato, non possono fare le capriole, i salti, una cosa tipo Van Damme contro Stallone. Esatto. Comunque girata come era girata. Ma ci voleva... è realistica, è sì. Realistica, come è realistica la scena di Cronenberg La promessa, sì, dell'assassino. Cazzotti duri, sì, l'unica cosa è quella, ecco. Non mi piace che si debba per forza stravolgere anche la scena, no? Per quella che è. Il bello è la semplicità, perché devi dire che è un capolavoro di tecnica? Non è così. No, infatti, assolutamente. No. Comunque, peccato, perché devi dire che è una bellissima scena d'azione, non è una scena d'azione quella, no, questo è il bello della scena. È uno scontro di personaggi, sì. Poi una cosa che avevo notato al cinema, mi ha fatto ridere, ma quando parla dei trucchi, no? Bane gli rinfaccia tutte le... gli insegnamenti della setta, gli dice: no, i trucchi, la teatralità, no? E lui lancia queste bombette. Ma cosa serviva? Quello non l'ho capito neanche. Quelle pallette io. Di farina, non ho capito cosa voleva secondo fare. Là, pure lui c'ha le idee un po' confuse. Sì, forse aveva preso troppi colpi. O Alfred gli aveva manomesso i gadget. Cioè, faccio uno scherzone. Sì, probabile. E vabbè, dai, diamo un giudizio stringato sul film e sulla trilogia. Iniziamo dal Monco, che è quella più caustica. Sufficiente, ma non si applica. Riguardo al film? Sì, all'alunno. E la trilogia? La trilogia parte male al secondo capitolo, che è una chicca, e la conclude come la deve concludere, senza rovinarla troppo, però il predecessore è troppo alto come livello. Ok. Vai, intrinseco. Più o meno la penso così. Una conclusione degna, perché comunque è difficile chiudere una trilogia così bene, però non proprio all'altezza del predecessore. Comunque c'è da dire che io anche dopo The Dark Knight non ero convintissimo, rivedendolo me ne sono innamorato di più, quindi aspetto di vederlo anche per la questione del doppiaggio. Comunque complessivamente soddisfatto, ecco, a parte i difetti che abbiamo evidenziato. Ok, un'altra cosa che... vabbè, io l'ho detto già nella recensione, secondo me è una chiusura abbastanza degna. E a me è piaciuto anche il primo episodio, perché comunque sono appassionato del personaggio, e niente, mi è piaciuto. I difetti che ci sono sotto la luce del sole, quindi è innegabile riscontrarli, però tutto sommato come vi dicevo, alla scena finale comunque il magone è venuto, quasi dispiace che muoia quel personaggio perché te ne innamori alla fine. Ci sono cose che non funzionano, però tutto sommato è un po' la storia di ogni film, non esiste il film perfetto. Questo è imperfetto, molto ambizioso e va bene così, dai, insomma. Per quanto mi riguarda, il rapporto tra Batman e il cinema può finire qui. Non mi sento abbastanza soddisfatto. Ed invece no, perché? Aspetta. quello poi ci arriviamo. Io volevo sollevare un'altra questione che, di cui oggi, insomma, ho postato... una questione che ho, diciamo, portato all'attenzione anche sul forum, anche se non è che abbia attecchito per così tanto. E... ritorniamo al discorso della mitizzazione di questa figura di Nolan, no? Del regista migliore del mondo ormai, no? E il fatto che, ad esempio, ho letto questo commento di un critico di una rivista neonata, ovvero di Total Film, che io personalmente odio, più che altro perché non mi hanno risposto sulla pagina di Facebook, quindi li odio. E niente, praticamente c'era questo critico che giustificava il suo parere negativo del, lo difendeva da un lettore che aveva detto sì, vabbè, però intrattiene piacevolmente. E lui, insomma, rispondeva, ma cioè, l'intrattenimento piacevole è quello che non mi aspetto da Nolan, quasi a dire che Nolan, comunque, visti i precedenti, non fa film di intrattenimento, fa qualcosa di più. Ora, secondo me, si è un po' persa la percezione della realtà con questa passione talebana per Nolan, perché, insomma, alla fine sì, è un bravo regista, come dicevo oggi, secondo me, è il miglior regista di blockbuster della sua generazione. Forse anche perché, come faceva notare qualcuno, effettivamente c'è una moria di registi di blockbuster, però insomma è un regista che fa film di intrattenimento. Ha fatto anche altro, perché insomma a me mente è qualcosa di più, però fondamentalmente son film di intrattenimento, non è che devo aspettare grandi cose di più. Questo almeno secondo me è il mio parere, insomma, tutti questi pareri negativi secondo me sono un po' eccessivi, perché sì, il film ha i suoi difetti, però fondamentalmente, almeno per quanto mi riguarda, ma anche per quanto riguarda chi poi ho sentito criticato in maniera negativa il film, quelle 2 ore e mezza te le fa passare comunque in allegria. Quindi, non lo so, secondo me il fatto che sia stato bocciato in maniera così dura è anche figlio di aspettative forse mal riposte. Non lo so se voi volete aggiungere qualcosa al mio livore. Vabbè, rischierei di ripetermi, dicevamo prima intrattenimento di qualità, è lo stesso discorso. Però il fatto delle aspettative è strano, perché sì, è l'ultimo, quindi per forza di cose probabilmente sono state più alte, però io mi ricordo per The Dark Knight era stata una cosa spaventosa, cioè l'impressione era che fosse molto più imponente come attesa, anche tra i viral, pubblicità varie. Io non so perché, ho l'impressione che fosse stato molto più sentito il secondo film come attese, eppure non mi ricordo meno contraddizioni, cioè pareri contrastanti, ecco, forse mi ricordo male. Io non ne ricordo nessuno, francamente. Sì, praticamente sì, ecco, eppure, come dicevo, l'impressione che fosse molto più atteso quello che questo, togliendo il discorso finale che ti porta per forza alla curiosità, però poi sì, non ha senso, cioè lamentarsi che un film di intrattenimento intrattenga è paradossale, cioè sarebbe bello chiedere a questo recensore come considerava The Dark Knight, cioè che cos'era, non era intrattenimento, cos'era per lui, poliziesco, noir, davvero? Boh. E anche poliziesco fondamentalmente è intrattenimento. Certo, sì, beh, ma anche il noir, però cioè... che tipo di categoria avrebbe usato, visto che intrattenimento non va bene. Boh, vabbè. Trattenimento. Sì. Vai, Monco. No, mi è spuntata in mente un vecchio ricordo. Quando c'erano le prime news su un probabile terzo capitolo, non vi ricordate che Nolan aveva detto che forse non lo faceva, che insomma lo volevano togliere, che lui non voleva più far film di supereroi? E poi sì, era venuta fuori una considerazione, anche un'illazione, in cui si diceva, vuoi vedere che alla fine fa una roba alla Raimi? Cioè, lo fa forzatamente, fa un ultimo capitolo del cavolo. Non vorrei che... non è un film brutto, assolutamente, anzi, è il contrario di un film brutto, però non vorrei che avesse detto, vabbè, io la butto così, non mi impegno neanche tanto, faccio un filmetto finale... e boom. Non vorrei... Ma non lo so, quello non credo. È un'illazione. Sei un illazionatore. Sì, sì. Però mi ricordavo di questa cosa. Così, sì, per giustificare che... magari qualche critica. Disse che non avrebbe fatti più, ma cioè nel senso disse farò il terzo. Nel senso non è che... non era a priori, disse chiudo la trilogia e basta. Almeno io ricordo questo. Poi ma comunque, io ricordo anche che volevano... insomma, gli avevano detto... o forse no, lui voleva farne addirittura di più e appunto... gli hanno detto no, ti fermi a 3, e forse anche per quello si era incazzato, o per un motivo o per l'altro, insomma non era felicissimo di un altro capitolo, in ogni caso, ecco. Beh, comunque l'ha trattato bene, mi sembra, tutto sommato. Appunto, sì. Però dico, metti che era molto più dentro il progetto, chissà cosa veniva fuori, ma solo così, magari non è niente di vero. Tra leggere questo, sì, può essere, cioè nel senso sono successe varie cose. Ma secondo me è un personaggio che si adatta talmente bene alle sue tematiche che non riuscirebbe a farne un film alla Raimi, perché fondamentalmente Spider-Man, anche quando fu scritturato per il primo film, con Raimi non ci azzeccava niente. Mentre invece Batman e Nolan sono due elementi che si sposano abbastanza felicemente. Quindi... gay. Eh? No, niente. Sono gay, gayacci. E vabbè, non lo so se volete aggiungere qualcos'altro passiamo alla news. Passiamo alla news. Dicevo che per me il rapporto tra Batman e il cinema potrebbe benissimo concludersi qui. E invece, vai Monco. E invece no, perché finora è solo voci, vociacce, anche se oggi è uscita una nuova news. A quanto pare nel 2015, e c'è già una pagina su IMDb, che non è la Bibbia, però, insomma, nel 2015 appunto potrebbe ricominciare di nuovo Batman, o sì, sarebbe un reboot, non una continuazione di questa saga, quindi appunto un'altra trilogia forse, comunque una nuova serie di film, 2015 o 2016 mi sembra, e... Allora aspetta che... vabbè, tu intanto intanto me li leggo un attimo la news. No, 2016 l'ho letto da un'altra parte. Comunque vabbè, i tempi sono quelli. Il tempo di vendere questo, di farlo uscire in Blu-ray, e intanto si mettono a scrivere quello dopo, quanto pare. Non so cosa si inventeranno. Ieri parlando con Intrinseco, lui parlava del... come si chiama il videogioco? Arkham Asylum, che potrebbe essere un'idea, siccome il videogioco era carino, potrebbero farlo in quel modo, ma sarebbe... anche il fumetto. Però poi l'effetto ritmo elastico là proprio... Sì, no, però nel senso, se dovessimo... un'idea. Ecco, visto che a me l'idea del reboot non piace, a prescindere, però se proprio devono farla, quindi si preannuncia un cambio di stile... piacerebbe, come per Man of Steel, un imbestialimento della cosa, quindi un ritorno all'idea un po' più classica, quindi un Bane gigantesco, un Joker sghignazzante, e quella storia in particolare mi piacerebbe, però sì, ammetto che da raccontare probabilmente sarebbe difficile, anche perché è lui in un manicomio che affronta gli nemici uno alla volta, non si presta bene, ecco. Però con quello struttura stile, molto ecco. A strati. La fanno stile Raid Redemption. Sì, perché dell'assedio piace, però è un casino. Beh. Tutti i cattivi principali di Batman in un film sarebbe una cosa impensabile. Te li bruci tutti subito. Sì, però sai, vederlo così massiccio, con quella tuta classica, con i nemici deformati dalla fumetto, sai, mi stuzzica. Eppure non sono un grande fan dei reboot, dei comic movie, insomma. Però boh, se proprio si deve fare vorrei vederlo così. Vabbè, in ogni caso la news è che probabilmente faranno prima il film sulla Justice League. Sì. Ah beh, sì. E poi comunque daranno il via al reboot del personaggio di Batman. E come avevamo detto qualche tempo fa, potrebbe essere Nolan a dirigere la Justice League, però. Visto che parlavamo di un Nolan stanco dei supereroi, o sì o no, ecco che viene rispunta un altro di film. Secondo me la Warner non si priverà mai di Nolan come produttore, perché comunque ha raggiunto un grado di competenza nel settore che forse pochi hanno, e come anche del resto figura come produttore anche in Man of Steel, quindi insomma. Però non lo so se tornerà come regista. Secondo me anche lui adesso ha voglia di progetti meno magniloquenti, insomma, anche perché gira blockbuster da sempre. Dopo un momento gli hanno solo affidato blockbuster, quindi. Sì. E tra l'altro la notizia di poco tempo fa è che Ben Affleck non dirigerà il film sulla Justice League. Oh. Vabbè, però Ben Affleck non è male come regista. No. Però non so, una cosa così grossa come la maneggerebbe. Ma fondamentalmente per la penuria di registi di blockbuster vari, alla fine l'unico nome che ti balza in testa è quello di Nolan. O fai riferimento a magari a generazioni passate alle sue, ma nuove generazioni. E nella news parlano dei Wachowski, eh. Insomma, diamoci conto. Diamoci conto. No, per carità. Ma alla fine sono tutti film tutti i registi che in qualche modo sono legati da contratti alla Warner, quindi sia Ben Affleck che Wachowski, quindi man mano balzeranno alla ribalta tutti quanti, e poi alla fine, non lo so, sceglieranno Zack Snyder. No, ma perché? Cronenberg, no? Datela a Cronenberg. per ripicca, sì. Oggi di questo. Non voglio, no, adesso lo fai, e te lo fai piacere. Eppure un Cronenberg, non so, un personaggio dei fumetti particolarmente disgustoso vorrebbe. I Puffi. Cronenberg starebbe bene, no? I Puffi. No. Tenten. Sì, Tenten. La creatura della palude, come si chiama? Cosa? Swamp Thing. Swamp Thing, sì, non sarebbe male. Un piaceva Cronenberg tanto a Moore, quindi chissà. Ah. Beh, ci sta sarebbe la sua. La sua poetica. Sì, anche perché fa roba seriosa ultimamente. Vederlo tornare alla violenza e al cruento non glielo auguro. Ten che incontra il pasto nudo, no? Non so se ci sono personaggi caratterizzati da metamorfosi, perché in quel caso pure si sposerebbe con la poetica di Cronenberg. Dai, la missione nostra sarà trovare un film da supereroi da far girare a Cronenberg. Ma per me lo farà, vedrai. Poi glielo rinfacceranno tutto il tempo. Lo farà per ripetere così strano che sconvolgerà tutti e diranno... Ma non lo so, perché fondamentalmente quel Cronenberg è un po' morto, o no? Ma quale? Comunque gli ultimi film che ha girato sono abbastanza lontani dal primo. Parla più di psicologia che di altro. Sì, ma comunque cioè, è impensabile, non ha mai fatto un film veramente hollywoodiano, non è mai uscito dal Canada ufficialmente come regista, quindi un errore di vecchiaia. Facciamo una dovuta precisazione, sì, magari ha detto le cazzate, ma Cronenberg, ragazzi, cioè io lo amo. Penso, immagino anche voi lo amiate. Ma cosa stai dicendo? Che quando è finita la notizia hai detto, ma da quanto tempo non fa un po'? Quello che fa rabbia intrinseco. Anche perché gli ultimi due non l'ho visti, Cosmopolis e Dangerous Method. Sei peggio di Cronenberg, guarda. Ah, ci sono rimasto male quando hanno chiuso il sequel di Promessa dell'Assassina. Secondo me anche lui ci è rimasto male. Beh sì, no, nella news c'è scritto che lui comunque voleva farlo. Aveva già Cassella, aveva già accettato. Mortensen voleva farlo, quindi... Anche a me dispiace, nel senso non è il meglio di Cronenberg che ha fatto, a parte le scene sempre dirette bene, ben realizzate, però... Mi dispiace, insomma... Ma che poi quando è un autore a voler fare il sequel, insomma... Sì, non... infatti, perché tarpagli le ali così? Chissà perché poi, comunque... Sì, non è un blockbuster, ma io mi ricordo un'accoglienza buona anche tra chi Cronenberg non aveva mai sentito nominare. Poi perché finché accomoda un po' tutti, era una gangster story tosta. Sì, ma penso che con quello si è guadagnato un sacco di nuovi spettatori, nuovi fan, sì, senza dubbio. Sì, poi se l'è giocati scagliandosi contro Nolan, però vabbè. Ma già con Cosmopolis, molta gente che appunto l'ha conosciuto solo per gli ultimi film è andata, l'ha vista e ha detto oddio, è questo. Ecco, ad esempio, io che comunque il Cronenberg sia degli ultimi film che dei film precedenti più o meno lo conosco, che mi devo aspettare da un Cosmopolis? La macchina. Ecco, me ne abbiamo parlato, ho fatto una recensione e una puntata, ma... Lo so, però io adesso sto a fare la domanda specifica. Beh, ma ha molto in comune con non proprio i primissimi, comunque Crash e anche il pasto nudo in un certo senso, quindi quel tipo di film. Non so se hai visto Crash. Sì, sì, sì. Molti paragonano, giustamente, sì. Quindi quel tipo di cinema, solo che è molto più ad alto budget, tra virgolette, perché comunque però una bella fotografia per Pattinson, va bene, che no? Secondo me ci stava bene, però è quel tipo di, orientati verso quel tipo di cinema. Tra l'altro faranno anche il remake di Videodrome, eh? Sì, ho letto. E lo scriverà uno dei due sceneggiatori di Transformers. Io ho messo... degli ultimi due Transformers. Sì, sì. Chi è che aveva messo la news? Io, mi sa. Sì, che era assurdo. Un film così anni 80 che... comunque così legato ai suoi anni, alla sua epoca, perché rifarlo? Poi ripetere la stessa, che poi funziona, comunque era un film sulle comunicazioni, sulla TV, sul che poi anche. Il produttore ci ha proprio tenuto a specificare, non c'entra niente con la critica ai media. Allora di che parli? Ma come? Cioè, allora di che parli? Titolo Videodrome, quindi... Pazzesco, io non so. Di Videodrome c'è in Cosmopolis, però togli tutto il sangue, la violenza, le deformità... però parla di certe cose, comunicazioni, computer, macchine, borsa informatica, insomma è un videodrome girato ai giorni nostri, senza James Woods. Okay. Vabbè, non so, stiamo un po' divagando, direi che possiamo anche concludere qui la puntata speciale su Batman. E non lo so se volete aggiungere qualcosa. No. Niente di niente. No, neanche una considerazione, una frase piccata, un insulto, niente. Vaffanculo. Letterman non aveva detto, non aveva spoilerato il finale, alla fine, avete visto? Io vorrei rimarcare quello che ha detto il Monco, però noi l'avevamo anticipato che Joseph Gordon-Levitt era Robin, quindi dovete, insomma, adorarci per questo. Dai. Noi sapevamo già tutto. Piuttosto, se apprezzate il podcast, e penso che lo apprezzate, altrimenti siete scemi che ogni settimana scaricate il file o ci ascoltate, andate su iTunes e dateci una valutazione di 4-5 stelle, anzi no, solo 5 stelle, perché se vi piace, insomma, ragazzi, quindi aiutateci a crescere anche sotto questo punto di vista, ditelo agli amici. Anche 6, Anche 6 stelle, sì, insomma, che non fate 5-1 però, cioè... Quindi, quando vi chiediamo di fare pubblicità su Facebook, non mettete mi piace, mettete la condivisione, quella ci aiuta un po' di più. Ma sono dei ritardati, lasciali stare. Ma no, dai! Dai, scusati se non ritardiamo questi che ci abbiamo, dai. Sì, mi scuso, ritardati. non lo capite, è così difficile, tasto condividi, cioè, vabbè. Secondo me si vergognano che gli piace questo Feedbusters. Vergognano, ma gli piace. Sì. Vabbè. Anche loro non piace il nostro programma, piacciono le nostre richieste di condivisione, quindi mettono mi piace e basta. Esatto. Piace, è totalmente passivo. Proprio. Si godono la nostra situazione, guarda come implorano attenzione, mi piace. E vabbè, allora, settimana prossima che esce interessante, Brave. Esce finalmente Baby Call, che è stato ritardato di una settimana. No, esce questo. Stava ancora il 24, comunque. Non so perché. No, adesso c'è scritto 31. Vabbè, insomma, My Movies, che comunque... Vabbè, comunque dovrebbe uscire domani, visto che siamo già al weekend. Esce Eva. Sì, me lo sono segnato anch'io, sembra interessante. E poi esce finalmente Womb, che abbiamo recensito anni fa, va bene. Siamo sempre avanti noi, ragazzi, insomma. Yeah. E poi il 5, The Brave, Ribelle, ne parleremo sicuramente. Sì, ma non ho tempo, c'è Shark 3D quel weekend, mi dispiace. C'è anche La Bella Addormentata. Sì. E anche The Bourne Legacy c'è. Sì, c'è sta uscita totalmente senza logica, perché ci sta, allora... vabbè, quelle del 31 non le contiamo, perché comunque è normale, di venerdì escono i film. Poi c'è, allora, mercoledì... 5 Brave, giovedì 6 Bella Addormentata, venerdì 7 Bourne Legacy. Che cosa aspettarsi quando si aspetta? Che già il titolo è come non detto. E Impepata di nozze, Madonna, che orrore. Vabbè, parleremo di 3 film la prossima settimana. So. Ma sì, mi sa che il 7 dovrebbe uscire anche quello della bicicletta con Gordon Levitt. Cioè, almeno IMDb diceva così. Coming soon, è indicato solo per la... lo so, vedo, però c'è scritto poi il 14, possiamo finalmente parlare di Prometheus. Effettivamente. Che ormai è vecchio e... Se fra un mese esce il Blu-ray. Sì. Madonna. Ed esce anche stato il figlio, madonna, sarà una lotta tra Prometheus e Cipri per l'incasso. Finalmente abbiamo qualcosa da vedere, perché insomma l'estate è stata dura. Diciamo che ogni settimana almeno un filmozzo interessante c'è. Ma pure due. Sì, sì. Oh, davamo i dati definitivi del primo weekend del Cavaliere Oscuro. Uno, vabbè no, primo weekend che esce da mercoledì. In ogni caso, prima serata di programmazione, quella di mercoledì sera del 29, 1.34 milioni di euro. Risultato definito eccezionale da tutti gli esperti del settore. L'anteprima com'è andata? All'anteprima mi pare che guadagnò sui 700.000, però può essere stata una cazzata. 100.000? 100.000? No, è un'altra cosa quella. Allora, aspetta, la cerchiamo, visto che stiamo qua, insomma. Perché comunque influisce sui dati, no? Il fatto che comunque è stata abbastanza pubblicizzata come anteprima, molti sono andati, non ho mai visto dalle nostre parti tanta folla. Ah minchia, con l'anteprima arriva a 2 milioni e 3, quindi 1 milione di euro l'anteprima. Beh, come minchia, amici da casa. Roba che minchia, amici da casa. Tra l'altro, allora, aspetta, questo, mercoledì questo, 1.340.000 euro in 835 sale, mentre invece l'anteprima 1 milione di euro circa in 676 sale. Alla faccia del cacio cavallo. Poi ragazzi... comunque non è più il weekend, cioè l'uscita nel weekend, ma mercoledì, che è ancora vacanza, ma molti hanno ripreso a lavorare, quindi è un buon dato. Sì, ma soprattutto ragazzi, andate a vedere questo e non Madagascar 3. Parliamo per sentito dire, ma c'è veramente. E noi dicevo, c'erano segnate 4 sale per questo film. Non so se poi ufficialmente c'erano, perché gli schermi erano strani. Comunque, era registrato su 4 sale in un multisala di 9, quindi era bello pieno. Fregati. Poi le prenotazioni, ho guardato, erano praticamente già tutte prese, i posti. Ma io quando sono andato all'anteprima del 21, la sala era per metà piena, tutte le prenotazioni, però vabbè, non ci sarà né la cultura delle anteprime né la cultura della prenotazione qui, quindi è comunque un risultato eccezionale, insomma. Vabbè, del resto è un film che ci mancherebbe altro se non fosse atteso, insomma. E vabbè, dai, allora salutiamo. Ciao! Ciao a tutti. Belle brutti, ci sentiamo alla prossima puntata. Ci stava bomba.